Buonasera a tutti, siamo di nuovo qui a Etnochic. Anche se temporaneamente sono da solo, sono Vladimiro. In realtà lo studio, come al solito, è ricco di ospiti. Gli ospiti di cui parliamo questa sera sono gli Assette Vedros Project, di cui abbiamo sentito questo brano, Back Beer, che è un brano del primo disco, che questo ensemble musicale particolare, composto da musicisti etiopi e musicisti italiani, ha registrato nel 2014. È un disco, come mi diceva Grazietta qui in studio, che saluto insieme a Claudia del progetto Some Roots, è stato un disco che poi è stato portato per tutto il sud dell'Etiopia, giusto Grazietta? No, il nuovo progetto è nato nel sud dell'Etiopia, la ricerca di canti femminili. Il primo disco è nato dal progetto di Gabriella e dal 2014 lo stanno portando in giro. Quindi salutiamo tutti i musicisti etiopi che ci sono dall'altra parte di questo vetro. Buonasera, good evening to you. Buonasera a tutti. Buonasera Gabriella Germandi. Che appunto stavamo parlando, che questo progetto nasce appunto da una tua idea, e questo era il primo disco del 2014. Puoi raccontarci qualcosa più in dettaglio su come nasce questo progetto? Sì, questo progetto ha una storia un po' particolare, perché nasce da una richiesta degli anziani patrioti etiopi, quei quattro rimasti in vita che hanno combattuto contro l'occupazione fascista italiana, ed era quello di portare in giro i canti della resistenza. E loro mi fecero questa richiesta nel 2012. La mia professione prima sarebbe quella di scrittrice e di narratrice. Avevo fatto uno spettacolo per loro per il 75esimo anniversario dell'eccidio di Graziani, cantando i canti di guerra, e in conseguenza di quello spettacolo mi hanno fatto questa richiesta. E a quel punto io sono molto sensibile alla richiesta degli anziani e mi sono subito trovata circondata da compositori, poeti che mi hanno detto: guarda, noi ti aiutiamo, non ti preoccupare. E soprattutto una persona che è un professore dell'Università di Addis Abeba, il quale mi ha subito messo in contatto con alcuni musicisti etiopi, e il primo è stato questo anziano flautista che si chiama Johannes Afewerk, che purtroppo adesso non gira più con noi perché è molto anziano e abbastanza acciaccato, e insieme anche a un compositore molto bravo che si chiama Cleluseudi abbiamo iniziato a pensare a che brani, su che cosa lavorare. E quando abbiamo pensato ai musicisti etiopi da coinvolgere, Gashanes è un suonatore di Washint, che sarebbe il flauto di canna di fiume, mi ha subito presentato Indris Hassan, che è un grande suonatore di violino monocorde e masenko, e da lì siamo partiti. Però ho pensato che questo progetto non aveva senso se non ci fossero stati anche dei musicisti italiani, perché penso che quando si parla di pace e resistenza si può stare assieme dalla stessa parte. E quindi ho coinvolto dei musicisti, inizialmente un trio barese, perché il pianista di questo trio era sposato con una donna etiope e aveva già le orecchie abituate alla musica etiope, perché la musica etiope, se qualcuno ci si avvicina per la prima volta, è abbastanza ostica. E però poi l'anno successivo, insomma, sono iniziati ad esserci dei cambiamenti, e poi il trio barese ha seguito la propria strada con i progetti che già aveva, e adesso abbiamo una formazione stabile con musicisti di Bologna e musicisti di Addis Abeba. Ascolta, io andrei ad ascoltare anche l'altro brano, che anche quello è dal primo disco, giusto? No, quello è un brano tradizionale dell'etnia Gurag, che non sta in un disco che abbiamo riarrangiato per i concerti, e perché noi facciamo sia brani di musica amarica. La musica etiope si suddivide molto tra la musica mistica ed ascolto

E anche questa era una registrazione dal vivo, e sentivo Grazietta che commentava qui sul fatto che questo è un ballo, insomma, una musica di danza. Mi confermi, Gabriella? Sì, sì, è come ti ho detto, è una musica per danzare, per spaccarsi le ossa volendo anche e sputare mezzo polmone. E insomma, quindi stavamo parlando appunto dai canti della Resistenza, che comunque basati su musiche tradizionali, avete cominciato a fare proprio una ricerca sul campo, giusto? Sì, già la musica dei canti di guerra era comunque partiva da una ricerca soprattutto sui testi, perché in Etiopia da sempre la musica è stato lo strumento che ha utilizzato il popolo per parlare col proprio governo. C'erano un tempo, c'erano i cantori, che erano gli asmari, che erano quelli che parlavano a nome del popolo. E infatti ogni mattina l'imperatore Haile Selassie si svegliava e chiedeva ai suoi addetti alla comunicazione che cosa cantano in giro gli asmari in questi giorni, per capire Chiaro. Com'era l'andamento della situazione. È una specie di cantastorica in qualche modo. Esatto. E poi ci sono tutti questi canti tradizionali, quindi noi comunque siamo partiti da una ricerca tradizionale. Ma adesso abbiamo pensato di iniziare questo progetto che parla delle figure femminili della storia e mitologia d'Etiopia. E che è un progetto che si chiama Progetto Makeda, giusto? Sì, che si chiama Progetto Makeda perché si parla sempre di crescita, di progresso femminile, eccetera, però anche in Etiopia quando si parla di progresso si tende a importare modelli occidentali perché pare che il progresso lo porti solo l'Occidente, e noi invece penso che abbiamo tante figure che ci possono ispirare, e basta solo pensare che mentre l'Italia riporta la nascita della propria cultura un po' la storia un po' della nascita dell'impero romano a Romolo e Remo, noi portiamo la nascita della storia etiope alla regina di Saba. Chiaro, che poi Makeda sarebbe il suo nome, giusto? Makeda sarebbe, in realtà non sarebbe Makeda, ma è Makda. Makda è il nome etiope della regina di Saba, e nella Bibbia, secondo la nostra tradizione, nella Bibbia viene chiamata Zeb. Ho capito, ma fra l'altro Magda comunque è un nome che mi pare ci sia nella Bibbia. Magda comunque è un altro nome ancora, non è legato a questo. No, Magda è legato al Vangelo. Ah, ho capito. E oltre a questo abbiamo pensato anche di lavorare sulle etnie che hanno dei rituali al cui centro ci sono le donne. Purtroppo devo dire che non siamo riusciti ad arrivare a fare la ricerca fin dove volevamo, perché siamo praticamente stati arrestati dalle piogge. Quando siamo stati in Etiopia a lavorare sul campo è iniziata questa stagione delle piogge precoci e insomma ci siamo trovati senza ponti, fiumi da guadare. Certo. Siamo arrivati a circa 300 km dal Kenya, ma l'ultimo posto, che era un posto per andare a raccogliere i canti delle mestruazioni, che questa etnia canta, le ragazze di questa etnia cantano alle proprie compagne quando per la prima volta hanno il ciclo mestruale, quando c'è, sì. Non abbiamo potuto raccoglierlo. E quindi quanto tempo siete stati più volte, o è stato un unico viaggio? Abbiamo fatto un viaggio, prima siamo stati in ottobre e già avevamo iniziato a lavorare in ottobre con un compositore di un'etnia Kunama, perché nell'etnia Kunama la parola madre è sinonimo anche del palo centrale che regge il tetto della casa, cioè si usa la stessa parola per tutte e due, e quindi siamo partiti da questa parola per fare un brano, e in più un brano di etnia Gamo, perché la musica etiope che si conosce prevalentemente la musica amarica. Difficilmente si conosce altra musica legata all'Etiopia, e per noi è anche importante far emergere anche l'altra musica. Oggi lavoravamo a questo brano Gamo e il batterista ha detto: oh ragazzi, qua finalmente stiamo andando verso West Africa, perché è completamente diversa, anche i ritmi sono completamente diversi dai ritmi dell'altopiano. Certo, che sono quelli più conosciuti, quelli in alto piano. Sì, sono quelli prevalentemente la maggior parte di Etiopic, di Mahmoud Ahmed, sì. Mulato Astad, che in realtà Mulato Astad che mescola la musica tradizionale del nord Etiopia all'utilizzo della musica dei Dassanech, che è questa etnia che canta i canti delle mestruazioni. Che quindi sarebbe anche quello su cui state lavorando voi? Sì, non facciamo questo genere di lavoro che fa lui, perché per noi è importante. A noi piace che la tradizione sia rispettata completamente e nello stesso momento che non sia per niente tradizionale. Quindi utilizziamo solo gli strumenti tradizionali della tradizione etiope. Chiaro, lui invece sì, è un trazzo strumenti più quasi jazzistico, insomma, in qualche modo. Sì, cioè, c'è da dire per esempio che molte volte noi abbiamo, insomma, tra musicisti etiopi si parla del fatto che per esempio in alcune situazioni al posto del violoncello potrebbe usare il masinco, oppure, però chiaro. Lui non ha questa idea. E ti volevo chiedere una cosa, quando appunto parli di compositori, in che senso intendi questa figura del compositore? È che bisogna avere bisogna lavorare con i compositori delle etnie, perché è molto difficile altrimenti riuscire a fare un brano che abbia la base ritmica, che sia veramente aderente a quella che deve essere, perché sembra una sciocchezza, ma anche oggi, no? Qua c'è Camilla Missio che adesso chiamo a intervenire assieme a me per parlare di questo brano Gamo, che insomma era tutto storto, una volta in 5/4, una volta, allora non si capisce, ecco, però cioè, quindi la tendenza, il problema sarebbe che se ci mettessimo a comporlo noi, la tendenza sarebbe quello di quadrarlo. Chiaro. Sì, sì. Camilla, appunto, parliamo di questa cosa dei ritmi, no? della ritmica, quindi l'approccio compositivo e soprattutto questo discorso che faceva Gabriella, no? Dell'aggiustamento, no? Come arrangiate i brani, insomma, in questo? Beh, intanto ci è voluto un po' di tempo per entrare proprio in questo tipo di mondo musicale. Parlo per me, magari il batterista e il pianista sono forse, hanno dei trascorsi più... E il pianista sarebbe poi Fabrizio Puglisi, giusto? Sì. Che credo che per i radioascoltatori di Bologna non abbia bisogno di presentazione. Ah, probabilmente anche Tommy Ruggero, insomma, è molto dentro alla musica etnica africana. Cioè. Ecco, per me è stata una scoperta molto bella, ma più recente, ecco, diciamo. Quindi il primo anno e mezzo l'ho passato così a orientarmi. Non che sia finito l'orientamento, però ecco, adesso un pochino inizio a sentirmi più a mio agio anche con questo modo di portare i tempi, queste cose disper, queste scomposizioni, anche queste scale, perché ovviamente suonando poi uno strumento anche armonico, insomma, ho anche il problema, certo, di capire queste scale che sono alcune uguali o simili, però anche quando sono uguali sono usate in un modo diverso. Mm-hmm. Adesso non entriamo in queste cose, però. Chiaro. E alcune invece sono proprio tipiche dell'Etiopia, quindi anche lì bisogna un po' entrare in questo modo di accompagnare, di lavorare sull'armonia. E quello che ti volevo anche chiedere, poi magari andate a presentarvi un po' tutti i componenti, non ci sono tutti i componenti del gruppo, la formazione attuale, dicevate, è cambiata negli anni, insomma, e appunto dicevate che poi prima alcuni suonatori per anzianità anche non riescono più a muoversi dall'Etiopia. E sono, è stato un percorso, insomma, piuttosto lungo, che ha coinvolto tante persone. Quello che volevo chiedere, nell'ascolto, questo percorso che dicevi è durato un po' di ascolto, è stato solo suonare assieme o anche ascoltare queste registrazioni? Beh, è stato molto ascoltare assieme, nel senso che soprattutto all'inizio mi facevo molto suggerire, cantare delle linee possibili e poi cercavo di impararle, cosa che ancora avviene in parte, ma magari adesso mi azzardo di più a mettere del mio. Però ecco, per entrare in tutti questi generi che sono poi molto sfaccettati al loro interno, no? Non c'è un tipo di musica etiope. Allora ogni volta si scopre qualcosa di nuovo e bisogna rispettare anche degli stilemi e quindi imparare, certo, a conoscerli gradualmente. Però è una una grande esperienza. Bene, andiamo a conoscere anche gli altri componenti del gruppo che ci stanno ascoltando e poi conosceremo soprattutto i loro strumenti, che appunto abbiamo detto sono strumenti tradizionali. Allora, innanzitutto adesso i musicisti etiopi ve li presento io, perché ho promesso che non li avrei costretti a parlare in radio. There's no problem. There's no problem. Allora, qui davanti a me Indris Hassan, che suona il masinco. Ciao bel. Ciao. Ciao. E il masinco che strumento sarebbe? Masinco è un violino monocorde. Ah, ho capito, prima l'ho visto. Poi andremo a farlo sentire. Vedere. Poi Abu Gabre. Ciao, ciao, ciao everybody. Ciao Abu. che suona Washint, che è il flauto tradizionale fatto di canna di fiume, e come puoi vedere ha una sacca piena di flauti, perché ogni flauto ha una tonalità e quindi ogni poi volta sì, magari deve ne sentiremo alcuni, a ravanare sì. per capire qual è il flauto. Beh, come tutti gli strumenti da suono naturale. Poi abbiamo Msale Legasse, detto anche tutto bene. Che è il nostro batterista tradizionale ed è anche un po' una bella spina dorsale del gruppo, perché insomma spesso quando gli altri diciamo i bianchi non capiscono, Sale chiama e si sa dove si deve andare. Certo, il punto di riferimento. E poi Antanata Clemariam Barago, detto Bubu, che è più semplice, ma sempre al crar elettrificato e crar acustico. Al crar sarebbe l'arpa, giusto? La lira. Sì, sì. La lira, esatto. Poi c'è Tommy Ruggero alla batteria, che qua non c'è stasera. E Fabrizio Puglisi. E Fabrizio Puglisi. Che suona le tastiere o suona il pianoforte? Ma normalmente il pianoforte, però poi succede come in quel concerto dal vivo che avete sentito. Eravamo in Polonia, a Katowice, e dovevamo suonare in una laguna, e quindi hanno detto no ragazzi, non possiamo portare un pianoforte lì, non sappiamo come portarlo. Sembrava un organo Hammond, sembrava. Era un Fender. Ah, un Fender. Sì, sì. Quindi Fabrizio, ho il pianoforte, ho il Fender, ma diciamo tendenzialmente il pianoforte. Pianoforte. Bene, e andiamo a sentire alcuni di questi strumenti che dici. Ok, Gabriele. Adesso... Ciao, Tallac. Sono strumenti molto particolari, molto... che hanno, insomma, una storia molto, sì. molto antica, no? Giusto, sì. Gabriele? Sì. Questa è una scala tradizionale Bati, che è una scala che, diciamo, ha un orecchio, si può definire il blues d'Etiopia. Perché è vagamente pentatonica, giusto? No, sono tutte pentatoniche. Tutto pentatonico, non vagamente, proprio. Però strettamente. È solo pentatonico, quindi non ci sono scale miste. No, solo i Dassanec, questa etnia che ti dicevo, a cui in parte si è rifabulato. Pentatoniche però nel senso che hanno cinque note, non nel nostro senso. Ah, solo. Esatto, cioè sono, sì. Magari hanno intervalli diversi, chiaro, però hanno chiaro. Cinque suoni, ecco, in questo senso pentatonico. Sì, grazie. Però non è detto che abbiano i nostri intervalli. No, ci sono anche la nostra pentatonica maggiore e minore, ma anche altre con intervalli molto più particolari. Ah, ecco. Dopo vi chiediamo ai ragazzi di suonare un ancihoye, così capite com'è quando una scala è molto strana. Thank you. Questo brano mi piace un sacco, un brano tradizionale Bati, ma la fine ha sempre una frase, qualsiasi possa essere il poema che gli si mette o la storia che si racconta, alla fine c'è questa frase che dice Yevretal gai argargal yesau honkennamni dargal. Il letto con la rete fa saltellare, ormai tu sei di un altro, che cosa ci posso fare? È tipo una chiusa tipo di onde, come quelle chiuse che abbiamo noi delle favole, che dice finisce il lieto fine, poi dice festeggiarono e poi a me nulla mi dettero, no? Quelle cose. Ah, sì. Ci sono molte favole da noi che hanno queste chiuse un po', oppure qui finisce la storia. Sì, sì, sì. Insomma, forse per ritornare un po' alla realtà, no? Delle cose dopo. Queste storie cosa sono? Delle storie che raccontano? Sono tipo dei canti epici oppure sono tipo dei canti di narrativi? Di solito è sempre, cioè, questo brano nasce come brano per l'utilizzo della metafora etiope, che è il kne, che è una forma poetica detta anche oro e cera, dove si rifà l'arte orafa, dove l'oro viene colato in uno stampo di cera, e cioè qua vuol dire che il significato reale del testo sta nascosto nello stampo, mm-hmm. e si racconta sempre di una storia d'amore, in cui in questa storia d'amore si raccontano alcuni eventi, però l'amato è l'Etiopia. Cioè, quindi si raccontano gli eventi, c'è qualcosa, i fatti insomma, politici, di storia, di politica, i fatti politici dell'Etiopia raccontati attraverso una storia d'amore. Quindi cambia a seconda della situazione. Certo, quindi una forma di cifratura. Esatto. Ed è un qualcosa che soltanto appunto per raccontare, come dicevi prima, dei cantori, o è qualcosa questo, che viene anche ballato? Non sì, so. Sì, sì, questo si balla. Si balla. Sì, sì. Quindi chiaramente noi abbiamo sentito un piccolo pezzo, sì, ma chiaramente è una cosa che può andare avanti per molto tempo, così. Sì, dopo chiaramente ha delle variazioni, però si può andare avanti per molto tempo, molto ipnotico. Voi dovete chiedere a Camilla che cosa è successo la prima volta che ha suonato il Tigrinya, che è una musica che va avanti così per un sacco di tempo, sì. Con una linea di basso sempre uguale, che alla fine della giornata in cui abbiamo fatto questo pezzo lei ha detto devo essere dimagrita 5 kg. Sì, perché ma cioè le variazioni sono comunque tutto rimane così, o è nel senso, no, che dipende. Vuole essere molto ipnotico, ci sono, come dire, dipende. Delle suite di c'è l'una situazione e l'altra, sono quelle appunto ipnotiche che vanno avanti magari a lungo e entri in una specie di trance, certo. E altre invece che sono piene di stacchi, di anche cambi di tempo, quindi sono quasi jazz rock, non so come certo, dire. Certo, anche cioè, perché giustamente dicevate prima che la componente ritmica è la base fondamentale, è l'intreccio che sì. Su cui regge poi tutto quanto. Ritmica, no? è anche melodica alla fine. Mm-hmm. Sì, mi dispiace che non ti ho portato un brano Tigrinya, perché lì si capisce, è un brano assurdo con un 5/4 che anche Tommy, prima di riuscire a prendere l'accento giusto, perché basta spostarlo di un millimetro, certo, e sei già fuori. Sì, beh, qualcosa forse abbiamo potuto ascoltare qualche disco di registrazione dell'Etiopia che avevamo mandato quando abbiamo fatto un paio di puntate, che abbiamo fatto sentire dei dischi dalla serie Etiopic, e poi però siamo voluti andare a cercare anche qualcosa di registrazioni dai dischi folk, cose di questo tipo. Mm-hmm. No, effettivamente c'erano molti cambiamenti metrici e ritmici anche all'interno. Sì, sì. Difficilmente quadrabili, insomma, secondo la nostra logica. E ascoltiamo qualcosa. Parlavamo del crar prima, no? Sì. Della lira, giusto? Sì. Vogliamo chiedere sì. Abu and Nagarlevichan and the Chawat Tayikahal. Mm-hmm. questo era il suono del crar. Questo è il suono del crar, però questo acustico. È del crar acustico, perché poi c'è anche quello elettrico che non viene arpeggiato, ma che a volte viene suonato anche proprio con un plettro. Con un plettro, come se fosse una chitarra. Sì, e serve soprattutto per i pezzi da ballare. Il crar acustico viene molto usato anche per le meditazioni in chiesa, per i canti di chiesa, eccetera. E sì, volevo chiedere appunto a Bubu come, che comunque mi sembra piuttosto giovane, ma da quanti anni suona e come mai ha cominciato a suonare, se ha cominciato a suonare proprio il crar. Bubu, but am what atmas legnallegin and mutayikh neger kemecha jemro no crar mechawot yejemerk sint amat neber musika ust sitgeba ረጅም እና ግን ምን ነው ያነሳሳህ ወደ ሙዚቃ የገፈ? የኛ አካባቢ በብዛት ሙዚቀኛ ስለነበረ dice io sono tantissimi anni, devo dire che non mi ricordo neanche più, ero bambino. Ma era bambino, sì. E ho avuto la fortuna di nascere in un quartiere di musicisti, quindi fasicami antagorobit na per e, per esempio c'era anche una musicista che lavorava con noi all'inizio, che ci raccontava che anche loro tutte e due facevano le lire rompendo i recinti, rubando i legni dal recinto e poi dopo mettendoci i fili delle canne da pesca per trovare insomma il modo. E quindi hanno cominciato da bambini seguendo i più grandi. E anche quindi tu l'hai chiamata un po' come la lira, no? Perché tu sì. Sai che poi esiste poi la lira, che è quello strumento che si suona con l'arco nel Mediterraneo, che si chiama proprio lira, che sì, però è uno strumento molto diverso. La forma assomiglia? No, ha una forma di uno strumento, è come se fosse un violino, però ha una forma più a forma di pera e ha tre corde e viene suonato con un arco. No, infatti è molto diverso. Però la chiamano lira etiope. Tradotti non so perché la chiamano così, perché sì, in realtà perché lì la lira, quella dei, per dire, delle divinità greche, oppure anche che si vede nei cosi, che veniva chiamata anche, si usavano questi nomi anche citara a volte per alcune sì. Per esempio una, non mi ricordo se quella che veniva chiamata lira era quella col guscio di tartaruga oppure citara, però anche il nome citara, poi chitarra, venivano usati a volte un po' per tutti gli strumenti a corde in modo differenziato come strumento generale. E invece questa sembra proprio un po' tipo una piccola arpa in miniatura, giusto? Perché noi invece per noi l'arpa è un altro, che è uno strumento che non esce se non dalle chiese, che si chiama Beganà, che ha 10 corde. E che è triangolare? No, è gigantesco, è alto tipo fino a 1,60 m, ha una gran cassa quadrata. Ed ha dei suoni molto gravi. Sì. Ha normalmente ha solamente due scale che si possono usare su questo. Ah, quindi molto strumento. Diverso poi anche dall'arpa, in realtà, come la pensiamo noi. Sì, è una cosa completamente diversa. Viene fatto con le budella e poi vengono lasciate dei filacci sempre di budello affinché battano sulla corda e diano ancora più vibrazioni, perché è proprio, cioè, si usa normalmente durante le quaresime. Ho capito. Noi una volta io volevo utilizzarlo come basso in un brano quando l'ho detto al suonatore di flauto anziano, mi ha detto: ma tu ci vuoi far sconsacrare dalla chiesa etiope? Sei matta? No, quella roba lì non si può fare. No, perché no. È proprio uno strumento dedicato a quel tipo di musica. Solo una volta Mulato Astat che è riuscito a usarlo in un brano. Mulato Astat che biciano Bagana ye zemanawi musica austia tatakama and gziadele lelauchu tatakama yaqum. Sì. E invece il crar quante corde ha? It's religious instrument. Il crar c'ha 6 corde, però ci sono anche crar amst gamadalogin ne dabubsed bal asdist gamadalogin dabubsed bal amst ayawunyi lemindino yo bal ባለ 6 ያው ኮርድ ምናምን ለመጠቀም ነው ግን ባለ 5 ማለ ያው ፔንታ ነው 5 ነው ያው 5 ድምጽ አይደል የኢትዮጵያ Usato, ho detto una sciocchezza. C'ha cinque corde. Cinque corde, ma le cinque corde rispecchiano una scala pentatonica? O? È che ogni volta lui le deve accordare. Cioè, ogni volta che cambiamo scala, lui l'accorda. Ci sono alcune scale che non c'è bisogno di accordare perché sono soltanto ribaltati gli intervalli, ma gli intervalli sono quelli che si riesce a passare. E alcuni invece dove è proprio tutta un'altra roba. Infatti anche quando facciamo la scaletta chiediamo a Bubu dov'è che devi accordare qua per capire quale può fare. E andiamo a vedere anche gli altri strumenti, a sentirli per singolarmente perché poi il tempo corre. Poi abbiamo Abu che suona il Washint. E questo strumento che è un flauto diritto, giusto? E dicevi che ce ne ha tutta una serie che ognuno è per una tonalità differente, giusto? Sì, ogni tonalità ha un flauto. Però lo strumento è sempre quello strumento. Sì, però senti il guascentale, senti il sacro mattosoro. Questo Astraulet by Q, Astraulet Washington Charlie, le zi aggregia, ci metto di grin, le lei la ricordi, le mamma si attacca a me, ma zara che besanta, bisogna miso. Bisogna? Originati un bella che male in Washington. Dice adesso in Italia ho portato solo 12 flauti, ma ne ho oltre 20 normalmente quando vado che sono tutte tonalità, cioè ciascuno di questi flauti hanno tonalità differenti. Anche con micro ha detto adesso ho preso 12 tonalità per fare tutta la, però dice normalmente io viaggio con 20-25 flauti, anche perché a volte ci sono dei microtoni. Sì. E invece l'altro strumento è che hai chiamato violino monocorde del nostro fantastico Indris. E che il nome di questo strumento in realtà? Masinco. Lo sentiamo. Questo è uno strumento che litighiamo sempre, lo prendiamo un po' in giro perché in Etiopia dicono che lo strumento, adesso lo dico, lui mi guarderà con due occhi così, perché questa parola è del diavolo, perché fa la stessa, è capace di imitare la voce umana e quindi di imbrogliare le persone facendo pensare che sia un essere umano invece uno strumento. E perché questo va con la voce, cioè ti proprio ogni singola variazione della voce lui la segue. Perché sì, perché accompagna sempre la voce, cioè proprio ma lo strumento. Ma non sempre, però in molti punti sì, ed è proprio veramente aderentissimo. Come anche in una certa tradizione, insomma, il Vicino Oriente e Medio Oriente, dove di solito si tende molto a accompagnare, non c'è come da noi l'armonizzazione, no? Si tende a questi strumenti, per esempio. E guardandolo da qua mi ricorda alcuni strumenti, mi ricorda uno strumento per esempio che ho visto nel film Dal Blues al Mississippi nel Mali. Ah sì, nel Mali ci sono strumenti che assomigliano agli strumenti ma etiopi. Anche questo, c'è uno strumento che viene suonato dai forse più veniva, sarebbe giusto il verbo al passato, dai cantori di poemi epici dei Balcani, della Bosnia, del Kosovo, la Gusla. No, non conosco. Che aveva questo suono, un suono un pochino più di ronzio, che serviva proprio per fare degli accompagnamenti, per fare delle piccole, accompagnare questi poemi epici che erano molto lunghi, insomma, ecco. Invece in questo caso proprio voi lo utilizzate per accompagnare la voce, insomma. Ma allora in Etiopia si utilizza spesso per accompagnare la voce o per fare, però Idris ha una grande capacità perché lui è al confine tra la tradizione e il jazz, è estremamente quindi tradizionale, improvvisa. Ma ha una capacità di improvvisazione, di inserirsi ovunque. Infatti poi per esempio Idris, Msale e Bubu suonano anche con vari altri gruppi particolari, tipo i Kwankwa, che fanno una musica etiope un po' elettrificata, e poi suonano anche con Damakase, un altro gruppo che si chiama Damakase, dove ci sono dei musicisti, un musicista ceco e un altro musicista americano, fanno un misto di musica maliana e etiope, l'ekne, yemalina, e quindi cioè, il violino è molto versatile, insomma va un po' con tutto. Bene, beh, altra parte un po' come il violino da noi, insomma, ecco, poi sì, insomma. Se uno lo sa utilizzare bene, il fatto proprio di non avere confini sulla possibilità dei suoni che mette è incredibile, capito? Sì. Può permettersi quello che vuole. Io sono le 22 e quasi 25, quindi abbiamo 3-4 minuti. Allora vorrei quasi vi chiederei di parlare voi avete dei concerti a breve Sì, innanzitutto volevo ringraziare Claudia Carini, perché grazie a lei suoneremo venerdì sera al festival Le Cantantesse a Forlì attraverso il progetto Sound Root, che è un progetto che lei insieme all'organizzazione del Jazz Festival di Bologna e a un'altra associazione spagnola e una berlinese hanno creato per promuovere l'incontro tra musicisti migranti e musicisti locali, come forma di dialogo e di apertura, e anche per far vedere che a volte dalla conoscenza possono nascere tante idee. E poi avremo altri concerti, tra cui uno al Biografim il 19. Poi al Parco del Cavatic, sì, qui a Bologna. E poi ne avremo altri a Verona, a Nonantola. Devo dire le date. Allora, il 15 a Forlì, a Piazzetta delle Erbe, poi mi ricordo le Cantantesse, il 19 a Bologna, Biografim a Bologna, il 23 a Verona a Villaburi, il 25 giugno a Nonantola al Giardino Comunale per la Verde. Mi ha dato grazie, mi ha dato il cellulare con le date. Grazie. Bene, e io vi ringrazio molto tutti per ancora questo. Grazie, insomma, a te per averci invitato. Questa finestra, insomma, su questo coso, e spero di riuscire a venirvi a sentire prossimamente. Invito tutti voi ascoltatori a continuate poi a seguirci, che noi siamo ancora in onda ancora per un po' di puntate, e magari se volete fare un ultimo brano io invece vorrei dire un'ultima cosa, sì. Che questo progetto è un progetto che riguarda l'Italia molto da vicino per vari motivi, riguarda l'Italia da vicino perché tra Italia e Etiopia c'è una lunga storia di scontro ma anche di incontro. Riguarda tutti noi molto da vicino perché la maggior parte dei migranti che in questo momento attraversano il Mediterraneo vengono spesso dal Corno, certo, d'Africa. Purtroppo non ci si ricorda che quel Corno d'Africa un tempo aveva un legame molto forte con questo paese, e mi dispiace perché invece in Etiopia, in Eritrea, in Somalia l'Italia è ancora molto presente ed è una relazione a cui si è lasciata la porta aperta nonostante tutto quello che è successo, e quindi le storie che sentiamo in questi giorni sono storie che mi mettono molto in difficoltà, e il nostro progetto vuole anche sottolineare il fatto che esistiamo e che noi andiamo avanti assieme perché pensiamo che si possa e si debba. Certo, è assolutamente importante perché, insomma, come dire, non c'è nessun tipo di confine, tanto che vediamo come ci sono questi strumenti, queste musiche che riescono a oltrepassare, insomma, le frontiere, insomma, essere un patrimonio comune. Quindi, insomma, speriamo che anche le persone possano passare queste frontiere senza dover essere bloccate in qualche modo. Vi salutiamo e vi diamo la buonanotte. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. E ci vediamo ai concerti. Ai buonanotte, concerti. Grazie. Ciao, buonanotte. Ciao. Buonanotte a tutti. Grazie. Ciao. Ciao, buonanotte, grazie.